Siamo di calo. Monica non c'è? No. Adesso arriva. Arriva. Allora, oggi affrontiamo un tema un po' difficilotto. Cioè, proseguiamo un po' quello che ci siamo detti sullo sguardo e la visione simbolica della vita, per andare a toccare un tema che è quello della intelligenza spirituale. Sono temi un po' difficili, ma è bene che sappiate che esistono queste cose. Difficile magari per un laico inserito in mille impegni e difficoltà, è molto, molto difficile riuscire ad avere tanti strumenti per dedicarsi a queste cose. Però un po' bisogna tentare, no? di comprendere. E diceva bene Padre Pancrazio, un consacrato ha effettivamente più strumenti a disposizione. Un laico perché ha marito, ha moglie, ha figli, ha lavoro, ha impegni vari, deve andare a fare la spesa, deve andare a pagare le bollette, deve andare a... eccetera eccetera eccetera, non che noi non lo facciamo, ma magari ci sono degli incaricati che si occupano, gli altri vengono sollevati da queste incombenze, e questo chiaramente impedisce o comunque fa resistenza nel percorrere certe vie dello spirito. Però è interessante che tutti quanti ne sappiamo qualcosa o ne veniamo a conoscenza. Perché? Perché poi il Signore riesce a toccare i cuori di tutti, riesce a far fare dei percorsi incredibili anche ai laici. Non che i laici non possano, ma hanno più impedimenti. Io mi rendo conto, quando confesso, quando parlo con le persone, mi rendo conto che certe cose non hanno il tempo di farlo. Però vi voglio leggere una... che noi abbiamo tanti santi laici, no? Giovanni Paolo II ne ha santificati tanti, ne ha canonizzati tanti. Ce n'è uno di cui vi voglio leggere qualcosa, che è Giuseppe Lazzati, che era del 1909. Lazzati nel 31 si laurea in letteratura cristiana antica, studia i padri della Chiesa, si butta nell'esperienza associativa e poi si consacra al Signore. Tra voi ci sono persone che hanno lavorato, hanno studiato, hanno fatto esperienza di fraternità con la Fraternità Francescana di Betania, anche con altri movimenti, associazioni, e poi a un certo punto hanno deciso di fare le promesse di consacrarsi, proprio come Giuseppe Lazzati. È venerabile, Giuseppe Lazzati, dal 2013, non so se poi dopo la causa di beatificazione è andata avanti, non so cosa, a che punto sta. Comunque, ufficiale degli Alpini, nel 43, con l'armistizio, gli viene chiesto di aderire ugualmente al regime, quello della Repubblica di Salò. Rifiuta e viene internato in un lager tedesco. Cosa fa lì? Infonde speranza ai compagni di prigionia. Rientra a Milano, si dedica all'insegnamento e contribuisce alla ricostruzione del paese. consigliere comunale nel 1946, nel primo congresso della Democrazia Cristiana è membro del consiglio e della direzione e sempre nel 1946 entra a far parte della Costituente, no? Cioè di quel gruppetto di persone che andrà poi a elaborare le nostre Costituzioni. È uno dei pilastri della Costituente. Nel 1948 deputato del Parlamento. È impegnato sempre in mille diaconie. Dirige un quotidiano. Viene nominato nel 68 rettore dell'Università Cattolica e dovrà affrontare tutto il periodo della rivoluzione studentesca, tra i nomi, no, altisonanti dell'Università Cattolica di Milano c'è il famoso Capanna, cioè personaggi che molto intelligenti, di grande cultura e che vivono e affrontano la vita in una maniera diversa, cioè in una maniera con uno sguardo molto orizzontale e poco trascendente. Si butta nella organizzazione, anche nell'attuazione del concilio, è uno dei promotori, lui lo vuole, il Concilio Vaticano II è stato per lui grande motivo di grande impegno, animatore vocazionale fra i giovani, fonda un'associazione, Città dell'Uomo, con cui si propone di educare i cattolici a saper pensare politicamente. Insomma, un uomo fortemente impegnato a leggere la realtà secondo due registri. Il registro umano e il registro divino. Questo noi vogliamo dai nostri oblati. E da qui vorrei partire. La creazione si caratterizza per l'unità di due mondi, il mondo divino e il mondo umano. Ogni creatura di Dio, ogni creatura di questa creazione, da un albero a un fiume, a un animale, a tutto, porta con sé un codice. Quel codice è riflesso della seconda persona della Trinità. Quindi, dice San Tommaso, era doveroso che fosse proprio la seconda persona della Trinità a venire nel mondo, a incarnarsi e a salvare l'uomo. Perché? Perché, dice San Paolo, tutto è stato fatto per mezzo di lui. Tutto è stato fatto per mezzo di lui. Tutto è stato fatto per mezzo della seconda persona della Trinità. Cioè tutto è stato fatto per mezzo del Figlio. Il Padre lo ha voluto, il Figlio lo ha realizzato, mettendo in ogni cosa questa ratio, questa armonia, questo codice. Siccome questo codice sta dentro anche nel nostro cervello, allora noi siamo in grado di interpretare la realtà. Quindi studiamo fisica e diciamo H2O. Sono capace di creare l'acqua dall'idrogeno e dall'ossigeno. Quando abbiamo cominciato a studiare l'uomo ci siamo resi conto che c'è un DNA sofisticatissimo. Ma perché siamo stati in grado di interpretarlo, di decodificarlo? Perché il nostro cervello porta dentro di sé il medesimo codice che sta inserito nella natura. Il codice interpretativo che noi abbiamo nella nostra testa lo ha voluto la seconda persona della Trinità. Quindi tutto quanto è stato fatto per mezzo di lui, tutto è unito, collegato, collegabile. Tutto si richiama, ok? E all'uomo è stato dato il compito di dare il nome a tutte le cose. Significa che c'è una amministrazione che è stata data all'uomo. Non è stata data a un cane, non è stata data al gatto, non è stata data al criceto. È stata data all'uomo. L'uomo ha pieno diritto di stare in piedi davanti a Dio in una chiesa. Il cagnolino, ahimè. Ma perché lo dico? Non tanto perché ci sia un disprezzo degli animali, no, perché anche loro portano in sé un codice, ma perché oggigiorno si sta facendo una confusione incredibile, cioè ormai siamo diventati che quello che veramente mi capisce di più è il mio cane. Santi Dio, l'ho avuto anch'io il cane, però non ha mai composto una poesia, non ha mai fatto un coso di musica, non ha mai scritto un testo musicale, e quando io gli parlavo non credo che abbia capito fino in fondo i miei disagi e i miei problemi di coscienza. Ok? Ma quando parlo a una persona, mi aspetto che questa persona forse intenda qualche cosa. Ok? C'è una differenza sostanziale, un'autocoscienza nell'uomo che il criceto non ha. Il pappagallino ti ripete le parole, ma non è in grado di avere una coscienza. Non elabora concetti. Infatti San Tommaso dice ha un'anima sensitiva, non è che non ha un'anima sensitiva però, non razionale, ok? Non ha intelletto e volontà. Ora, saper cogliere nella creazione questi due mondi è importante. Non dimentichiamo che dopo il peccato originale l'uomo fa fatica a riconoscere i due mondi, comincia la sua confusione. È necessario che venga di nuovo, no? La seconda persona della Trinità incarnata, cioè Gesù, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, per aiutare l'uomo a vedere nuovamente. In che modo l'uomo inizia a vedere nuovamente? Attraverso il battesimo. Quindi senza il battesimo significa che l'uomo non vede chiaramente, non vede chiaramente. Cioè non vede la compenetrazione dei due mondi, il mondo divino e il mondo umano. È chiaro questo? Lo sapevate? Penso che lo sapevate, però forse riposizionarlo in maniera chiara è importante, perché abbiate la capacità anche di rispondere alle domande che vi pongono. Allora, saper vivere alla maniera di Dio significa guardare la vita con occhi abituati a vedere tutto come un simbolo. Vedere tutto come un simbolo. Cioè, con questa capacità di vedere l'insieme e di scorgere i due mondi che si compenetrano e saper riconoscere che dentro le situazioni, dentro le cose, nella lettura della vita, Dio mi sta parlando. Perché? Perché tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Quindi Gesù continua imperterrito a parlare nella nostra vita attraverso incontri, eventi, situazioni, sofferenze, gioie, qualunque cosa. Ora, per leggere spiritualmente, diremmo, no? Cosa vuol dire spiritualmente? Vuol dire quando io so, diceva un teologo, mangiare una fetta di prosciutto è spirituale? Sì, se sono capace di mangiare riorientando tutto a Dio, ponendo un'intenzione, collegando qualunque cosa e portando qualunque cosa dentro la vita di Dio. Questa abilità non ce l'hanno tutti, c'è chi mangia per mangiare, c'è chi si ingolfa, non è capace di vedere dentro un pranzo, no? Qualcosa che ci parla di Dio, un pranzo che ci comunica a Dio, un pranzo che ci orienta a Dio, un pranzo che ci unisce a Dio. Ma c'è chi vede semplicemente la soddisfazione di se stesso in quel pranzo. Tant'è che in molte occasioni, se voi cercate di fare un discorso, no? Anche un po' profondo, con i commensali della vostra tavola, noterete che alcuni si rifiutano di affrontare temi importanti. Capita spesso, oggi capita spessissimo. Oggi non si vuole pensare, oggi non si vuole orientare le cose che facciamo a Dio. Che bisogno c'è? Quando a un certo punto una persona mi disse che aveva un credito di 15.000 euro nei confronti di un amico, e io lo conoscevo l'amico, e io mi sono permesso di dire all'amico: quando è che restituisci 15.000 euro al tuo, no? Al tuo amico? Lui mi ha detto: tu occupati della preghiera, che della vita, quella fuori, ce ne occupiamo noi. Ecco, la classica esperienza di chi separa i due mondi. Okay? Un conto è la politica e un conto è la Chiesa, ma la Chiesa si occupa del modo di vivere del cristiano, che vive anche in politica, vive nella sanità, vive nella scuola, vive nel sindacato, vive in qualunque spazio. L'uomo è l'uomo. E l'uomo è creatura di Dio e la Chiesa si occupa dell'uomo perché la Chiesa deve in qualche modo sacramentalizzare tutta la realtà, cioè rendere tutto quanto la realtà in riferimento a Dio, cioè dare manifestazione che ogni cosa ha un principio, una misura in Dio, una ragione di essere in Dio. Allora, non tutti leggono spiritualmente gli eventi. Per leggere eventi e storia in modo spirituale serve un uomo e una donna spirituali. Ecco perché dico attenzione a chi vi consiglia. San Paolo è molto chiaro, no? Dice: vi siete rivolti per risolvere le vostre difficoltà, vi siete rivolti a pagani. Come potranno capire come potranno avere un metro di giudizio nei vostri tribunali che fa riferimento a Cristo, quando in realtà sono persone che non credono in Cristo? Guardate che sono forti queste cose, eh? Eppure noi ci fidiamo di chiunque. Per dire quanto il lupo si traveste di agnello, no? Adesso la Bonino è rimasta fuori non è stata eletta, no? L'agnellino che a un certo punto, non appena non è stata eletta, immediatamente si è scagliata contro tutti e contro tutto, dicendo ci sono stati brogli elettorali. E questa è una persona che ha sempre portato avanti filosofie che non sono cristiane. Ma dico un nome, ma non è che. È stato interessante come il Papa ha voluto andare al capezzale di Pannella per dirgli che il cristiano si misura con Dio. Per dire a un uomo che ha sempre escluso, almeno così apparentemente, ma anche nei fatti, no? Ha escluso Dio dalla sua vita, per dirgli Guarda che tutto quello che è la tua vita si misura con Gesù. Oh, un uomo docile allo Spirito Santo coglie le cose e gli eventi sempre in connessione con Gesù Cristo e con la storia della salvezza. Dunque, è tanto importante leggere nella vostra vita le situazioni alla luce della storia che Dio sta tessendo insieme con voi per portarvi a salvezza. Ogni cosa che ci capita ha un senso, non è un caso. Ecco, e le frasi, no? Gli slogan di Padre Pio, che il caso era, è il caso dei fessi. Il caso dei fessi, ogni cosa è guidata dalla provvidenza di Dio. E non si muove foglia che Dio non voglia, diceva Sant'Alfonso Maria de Liguoro. Quindi, come dire che la storia è guidata da Dio. Poi ci sono le nostre ribellioni, ci sono i nostri errori, le nostre cadute, ma il Signore anche grazie a quello, se siamo capaci di riferirci a Lui, se siamo uomini e donne spirituali, anche grazie a quelle situazioni ci riporta dentro il suo piano di salvezza. Quando sentite la parola giustizia dentro nella Sacra Scrittura, potete assimilarla tranquillamente a piano di salvezza, disegno di salvezza. Giustizia nel linguaggio biblico uguale piano salvifico di Dio nei confronti dell'uomo. Quella è la giustizia. La giustizia non è la nostra, punitiva, demolitrice, paralizzante, è sempre la sua una giustizia riparativa, è sempre una giustizia che è un riscatto della tua dignità. Quindi è sempre un atto che riporta al suo disegno di salvezza. È il Signore che ci riporta nella nostra posizione, quella vera. Quella vera, brava. Ora mi dai lo spunto per dire che cosa. Noi non sempre vediamo la nostra posizione, quella vera. Perché? Perché noi abbiamo occhi che sono spesso segnati dalle nostre passioni, passioni negative ovviamente, cioè le nostre passioni negative, la nostra rabbia, le nostre ire, le nostre invidie, le nostre gelosie, le nostre lussurie, no? Quindi tutto quello che ci attira in modo disordinato alla sessualità, la nostra sete di potere, la nostra sete di stare al centro delle situazioni, di ricevere sempre gratificazioni. Ecco, tutto questo che è passione disordinata ci impedisce di avere occhi spirituali. Noi non siamo in grado di leggere la vita. E che cosa abbiamo fatto del cristianesimo? Del cristianesimo noi abbiamo fatto il luogo di tante preghiere, preghierine, parole. Siamo diventati quello che Gesù aveva, cioè, sul quale Gesù ci aveva messo in guardia. E cioè siamo diventati persone che fanno preghiere parolaie. Cioè, quando pregate, non pregate come i pagani, moltiplicando le parole. E abbiamo perso che cosa? La parte più importante della nostra preghiera. Qual è? La relazione. Il cuore. Ma ditemelo bene. L'intimità con Dio. Tutte le L'amicizia risposte. con Dio. Sì. L'ascolto. L'ascolto. Bravo. Questo è il punto fondamentale. Noi parliamo, parliamo, parliamo. E nella preghiera, nella nostra preghiera, parlare è importante, ma è 50%. L'altro 50% è ascoltare le risposte che arrivano da Dio. Altrimenti abbiamo fatto della preghiera cristiana una preghiera buddista. Ecco perché il cristiano oggi tranquillamente passa dal cristianesimo al buddismo. Qual è il problema? Non fa nessun salto. Non fa nessun salto a ritroso, aggiungo. Cioè non va nella direzione di un perdere valore aggiunto che la preghiera cristiana consegna, ma va a posizionarsi in una medesima situazione di preghiera, perché oggi la preghiera l'abbiamo resa così, in più con tutte le comodità, i comfort del benessere, della rimozione della croce che il buddismo propone. E infatti il buddismo è una preghiera con se stessi, con l'energia, con il mio io. E piano piano il mio io ha modo di esprimersi, di rilassarsi, di trovare i punti chakra fondamentali della sua vita che stanno, non si capisce bene dove stanno perché ognuno dice dove sta. Allora, sta qua, sta in testa, sta nel fegato. A me è un fegato così, di chakra ce ne sono infiniti là dentro, nel mio. C'è un fegato che è. Allora, cioè, tutti vanno cercando, no? Una posizione di preghiera. Che non è però quella cristiana, ma noi abbiamo aperto le porte a una preghiera alternativa di questo tipo. Sta arrivando anche nelle scuole. Sta arrivando Yoga, ovunque. mindfulness. Eh sì. Ci sono mindfulness più light, però ci sono corsi di yoga anche nelle scuole. Sì. Lo yoga, diceva Benedetto XVI, c'è uno yoga che è ginnastica e lo possono fare tutti. C'è uno yoga che invece è filosofia e bisogna stare molto attenti. Perché? Che cosa viene meno? Viene meno queste cose che vi sto dicendo, cioè viene meno, primo, il fatto che la preghiera è personale, è relazione interpersonale, diciamo così, relazione interpersonale, quindi c'è una persona che sono io e c'è una persona che è Dio. Ed è lettura e ascolto della risposta di Dio. Se Dio è persona, non è un'energia evanescente, eccetera, eccetera, mi parla, diceva Padre Pancrazio con le sue parole molto semplici, non mi parla sillabicamente, ma mi parla attraverso la creazione, gli incontri che faccio, le situazioni che vivo. Dio costantemente mi parla. Chi tra voi è capace di riconoscere una situazione, di dire, guarda, caspita, quella è la risposta alla preghiera che ho fatto un mese fa? Chi di voi riesce a fare questo? Una volta mi morto di Ogni fame. tanto ci riusciamo. Certamente, chi è più abituato riesce a farlo. Grazie a Dio, in quella direzione stiamo andando. Cioè, chi è capace, chi è uomo, donna spirituale, capace di mettere insieme il mondo umano e il mondo divino. È chiaro? Ecco la visione simbolica. Io dentro tutte le cose riesco a vedere il simbolo. Ma noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo eliminato tutti i simboli. Voi andate in una celebrazione eucaristica dovunque. E andate a vedere se c'è una tovaglia che esprime con un segno qualcosa che indica una memoria, una festa, una solennità. Lo sapete che i colori hanno un'indicazione. Andate a vedere se c'è un'icona, un quadro. Andate nelle chiese moderne e andate a vedere se c'è nelle pareti circostanti la storia della salvezza, la tua storia, la storia ecclesiale, il fatto che tu sei inserito in un percorso che ti conduce in paradiso. Andate a vedere in queste chiese di cemento. Andate a San Giovanni Rotondo a vedere la chiesa commissionata a chi? A un ateo. Ma come cavolo si fa? Ma come cavolo si fa commissionare a un architetto che non sa nulla della simbologia cristiana. E non mi venite a dire, no, ma sì, sono simboli, sono facili da intendere. No, non è così. C'è un'esperienza, c'è una storia, c'è un affondare dentro nella parola di Dio, cioè, per cogliere la simbologia cristiana. Andate invece, per esempio, nella cattedrale nel Duomo di Monreale, andate a vedere che bello. Cioè, vi sentite? Sì. Andiamo a casa di Mariangela. Ci sentiamo dove? Ci sentiamo proprio avvolti dalla mia storia. Dalla mia storia personale. Nelle pareti io vedo e leggo come Dio agisce nella mia vita. Mi sento parte di Cristo, ma Cristo è comunionale. Cristo è Chiesa, perché noi siamo il corpo mistico di Cristo. Noi siamo le membra e Lui è il capo. Quindi, tutto questo ormai ci impedisce di leggere, di vedere questa azione di Dio, questa brace che sta sotto le ceneri, che continua a bruciare, ma non la vedo più. Quindi poi mi scoraggio, mi butto giù, ma allora, ogni tanto arriva qualcuno in confessionale, ma c'è una crisi di fede, perché? Che crisi hai? Ma sarà vero? Guarda, riprendi in mano la tua vita, no? E prova a rileggerla alla luce di questa domanda. Certo, la gente non è più abituata ad avere uno sguardo sulla vita, per cui io non sono capace di leggere e di ascoltare quello che mi viene detto. La prima parola importante del popolo ebraico, del rapporto tra Dio e il Pio israelita è Shema Israel, ascolta. Cioè ascolta vuol dire ascolta con un senso interiore, non ascolta solo con le orecchie. E andiamo a un altro punto. Sapete che esistono, dentro di noi, è come se, prendetela un po', no? Ecco, un po' in forma un po' allegorica, no? Però è come se esistessero dentro di noi due uomini e due donne, no? Un uomo esteriore e un uomo interiore. Quindi dei sensi esteriori e dei sensi interiori. Ok? Quindi io non ascolto solo con le orecchie, ma ascolto anche con un udito interiore. Come se ci fosse un uomo interiore con cinque sensi interiori. Questo aggancio tra l'uomo spirituale che sta dentro di me e i sensi esteriori ha subito una cesura, non c'è più un nesso, quindi tutto ciò che ascoltiamo mica entra dentro nell'uomo interiore e viene elaborato, ma dice San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, il capitolo 4, anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, e allude al corpo e ai suoi sensi, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. E poi dice nella lettera ai Romani, il capitolo 7, mi compiaccio nella legge di Dio secondo l'uomo interiore. Quindi è come se proponesse la lettura di due uomini, un uomo interiore e un uomo esteriore. Okay? Il contatto tra l'esteriore e l'interiore è purtroppo, ahimè, soffocato da una modalità di leggere la vita non secondo lo spirito ma secondo la carne. Quindi il peccato impedisce una lettura da parte dell'uomo interiore della vita, il peccato è il primo ostacolo, ma anche la mancanza di distacco da sé. Se io faccio tutto in funzione di me e del mio io, del mio ego, Diventa difficile riuscire a cogliere il piano di Dio, il livello di Dio. L'uomo esteriore è provvisto di gusto, ma io ogni tanto quel gusto lì lo devo mortificare per accendere e potenziare il gusto interiore, cioè il gusto spirituale, il gusto delle cose di Dio. Ecco perché la Chiesa proponeva la mortificazione in avvento, mortificazione di digiuno in quaresima. E San Francesco faceva 40 giorni di digiuno in avvento. Figuratevi in quaresima. Per dire, no? Perché? Perché tutto questo, ma no, non per mortificare, ma perché poi la lettura è stata quella della mortificazione? Perché se tu non leggi più, non sei più capace di leggere il piano di Dio nelle cose, non hai più questa visione, tu vivi la mortificazione come una semplice mortificazione della tua persona. Non la vedi come invece un potenziamento delle tue capacità interiori per leggere e interpretare il mondo. E va tutto di conseguenza. Se la tua preghiera è alla fine, se tu anziché dire le Ave Marie dici i nomi di Allah, è la stessa cosa. Praticamente la stessa cosa. Perché? Perché tu non entri dentro in una preghiera che ti deve invece aprire alla visione delle cose di Dio. È chiaro fin qua? Ho capito che poi la vita cristiana è bella, è affascinante. Il fascino non è determinato dalle molteplici parole che diciamo noi, ma il fascino è quando tu cominci a leggere che Dio nella tua vita sta operando, collegando, con la capacità di collegare i suoi interventi. Mistero di È un mistero di comunicazione. Diceva Padre Pio che Dio è il combinatore delle combinazioni. Cosa intendeva dire? È che lui mette insieme le cose. Siamo noi che non siamo capaci più di leggere quello che ci sta capitando. E quindi se non sottoponiamo alla nostra riflessione, immaginiamo poi la questione dei cellulari, eccetera, eccetera, che ci ha ormai allontanato da una lettura profonda, da un ascolto profondo della vita. Quando a un certo punto, se mi viene in mente un passo decisivo dell'Antico Testamento che qua non ho, vediamo se ce l'ho sul cellulare, Elia entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco, il Signore gli disse: "Che fai qui, Elia?" Egli rispose: "Sono pieno di zelo per il Signore degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo, ed essi tentano di togliermi la vita. Gli fu detto: Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore." E qui parte il grande momento di incontro tra Elia e il Signore. Ed ecco, il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dovete leggerli anche qui. anche qua in modo allegorico. Il fuoco potrebbe essere il fuoco proprio delle passioni, il terremoto e tutti i rumori nei quali siamo immersi, no? Dopo il fuoco ci fu un mormorio di un vento leggero. Dice il rumore di un vento silenzioso. È perché lì le traduzioni sono diverse, non è facile tradurre quelle parole. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello. Cioè, Elia è un uomo di Dio, un uomo spirituale. Lascia passare tutte quelle cose che anche nella nostra preghiera arrivano prima. Se abbiamo la costanza di stare dentro nella preghiera, poi a un certo punto arriva il mormorio del vento leggero. E lì Elia si copre il volto, capisce che sta arrivando Dio. Oh, è un lettore, un buon lettore della vita, Elia. Ed è un buon lettore della vita spirituale. E lì comincia a parlare con Dio. Allora, dicevo, ci sono elementi che impediscono questa visione delle cose, questo ascolto delle cose, questo gusto delle cose spirituali. Il primo, il più grande degli impedimenti è mettere al centro io. E ritorno alla catechesi di Nicola. Ecco la capacità dell'uomo spirituale di mettere al centro Dio, di trovare gli elementi per distanziarsi da sé, cioè distanziarsi dal culto di sé, ok? Giusto per capirci meglio. Questa è un'intelligenza spirituale, imparare a leggere. Ora, per imparare a leggere le cose, io devo anche mortificare tutta quella parte di sensi esteriori che mi impediscono di leggere. Dopo il peccato originale, questi sensi lavorano contro la sensualità. Ma non vedete che c'è ogni immagine televisiva, dei telefoni, eccetera, eccetera. C'è sempre un'immagine, c'è sempre una seduzione, uno stuzzichio. Allora, ecco, è tanto importante cominciare a fare un discernimento, un filtro, a mettere un filtro nelle cose che facciamo. Se io mi nutro di immagini che sono sempre sensuali, e vado a vedere film che sono sempre sensuali. Se la mia casa viene arredata con elementi che non mi conducono a Dio, ma mi creano delle resistenze, mi creano dei filtri nella comprensione di Dio, io devo imparare a eliminare. Eliminare tutto ciò che non mi porta a Dio. Eh no, ma questo è bello, perché questo, vedi che colori, eccetera, eccetera. Poi magari guardi bene e dici, caspita, ma questa qui è una scena di violenza, non so, qualunque tipo, no? Una scena di violenza. No, perché vedi l'effetto dei colori. Che me frega a me dell'effetto dei colori? Quell'immagine ti andrà progressivamente a inquinando la tua capacità di vedere. Perché goccia dopo goccia di veleno in un bicchiere d'acqua, il bicchiere di acqua diventa velenoso. Allora, purificare il cuore, purificare i sensi è uno dei nostri compiti principali per riuscire, non finalizzati a se stessi, ma per riuscire ad attivare tutta quella sensorialità dell'uomo spirituale che sta dentro di noi. Il gemello spirituale, no? Che sta dentro di noi ne trarrà senz'altro beneficio. Allora, sono entrato in una casa e la signora mi dice: sai, qui se mi puoi dare una benedizione, eccetera, eccetera. Dico: sì, va bene, te la do la benedizione. Ma mi giro e c'era un Buddha lì, un corno là, un coso lì. Cioè, io te la benedico pure la casa, però se tu ti nutri di queste cose, cioè alla fine poi è dura poi riuscire ad aiutarti a sviluppare la parte positiva che a noi interessa. A me che tu nella casa metti tutte le cose e che mi chiedi la benedizione, è un appiccicaticcio, no? Capite che è tutto un appiccicaticcio. È inutile che tu vai no, come si chiama? Quel mafioso siciliano che c'aveva la casa piena di santini e di Padre Pio, eccetera, eccetera. O vai a Rina, o vai a accendere il cero. Cioè, capite che non. Mi ricordo quel tipo che viene a confessarsi e confessavo, dov'è che ero? Ero a Napoli, mi pare. Confessavo nel napoletano, insomma. E venne questo tipo a confessarsi, mi disse che voleva confessare. Dico, va bene, ti confesso. A un certo punto ho avuto un flash, come un flash. Dico, ma tu fai estorsioni? Cioè, non ho mai domandato, è solo quella volta lì. Non so come mai, mi è venuto sto flash, ma tu fai estorsioni. Mi guarda e mi fa: padre, come fa a saperlo? Sembrava un mago che aveva. Ce le hai o non ce le hai? E ha detto: ce n'è una in corso in questo momento. Allora dico: guarda, io non ti confesso, non posso appiccicarti una roba. Io ti confesso perché tu possa sviluppare la tua capacità di entrare in relazione forte e profonda con Dio. Non ti posso appiccicare una roba che tanto poi la tua conduzione di vita, il tuo modo di vivere, la tua vita continua a mantenere certe logiche. E lui mi ha detto: no, io mi voglio confessare. Adesso chiamiamo la persona che sta facendo l'estorsione. E ha chiamato e gli fa: poi qua c'è un padre che ha, come dire, ci ha sgamato, no? Ha scoperto che. Tornatene subito a casa. Quello là deve aver detto: ma cosa stai dicendo? Sì, anzi, dice: confessati anche tu. E ha confessati due. Due al prezzo di uno. Devo sempre vedere, faccio le cose in funzione di un potenziamento, di un qualcosa di più. Devo entrare nella vita di Dio, che è una vita affascinante. È un magnete che mi attira dentro qualcosa di straordinario. È quello, è. Allora faccio l'oblato. Perché faccio l'oblato? Ma perché mi vado a tirare la zappa sui piedi? Ma che cosa me lo fa fare? Se non sviluppare delle potenzialità che stanno tutte dentro di me. E di cui non mi sono mai reso conto, e che nel rapporto con Dio diventano qualcosa che mi rilanciano dentro la bellezza della vita. Ricordate quel testo che dice: la creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa infatti è stata sottomessa alla caducità. Non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa. E nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione. Tutta la creazione sta attendendo di entrare profondamente nel mistero di Dio. Per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Siamo in Romani 8. Essa non è la sola, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli. Noi siamo già figli adottivi che aspettano la pienezza dell'adozione. cioè di entrare profondamente, stabilmente nella vita di Dio. Poiché nella speranza noi siamo stati salvati. Infatti Paolo si rivolge ai cristiani chiamandoli santi, a voi, eletti, santi di Dio. Perché? Perché è già innescato il processo. Con il battesimo già è partita la nostra capacità, la nostra impotenza, è partita la nostra capacità di leggere la vita e leggere il piano di Dio nella vita. Non fermiamo questo processo. Tutti gli aiuti che noi riceviamo sono la preghiera per purificare anche i sensi. Noi dobbiamo purificare, ma la purificazione non è purificazione, devi purificarti. Sì, mi devo purificare perché? Perché per poter vedere, per poter vedere. Allora capite il testo che avevo richiamato ieri, quando a un certo punto Gesù prende, leggiamolo di nuovo, non è più una lettura moralistica quella che facciamo della Bibbia. Cos'è che devo fare? Allora noi dobbiamo fare questo, noi dobbiamo fare quello, dobbiamo fare quello, dobbiamo. No, noi siamo chiamati dentro una vita nuova. Cioè, un salto, tac, ci buttiamo dentro. È come se noi da una tomba, no? Immaginate di stare dentro una bara. Okay? Peccato originale è questo. Siete dentro una bara. Siete infilati dentro, siete vivi però, ma siete dentro una bara e cominciate a grattare perché vorreste uscire. No? Si dice che il beato, quello di Torino, come si chiama? Beato, quel ragazzo ingegnere, no? Frassati. Si dice che fosse stato seppellito, che ancora non era morto, cioè che si sia risvegliato dentro nella perché poi quando l'hanno aperto l'hanno trovato completamente spostato e così, sembrerebbe. Comunque immaginate di essere lì dentro, di grattare questo coperchio perché avete bisogno di ossigeno, siete dentro una situazione paradossale perché tutto è chiuso, tutto sigillato, improvvisamente sentite dal di fuori qualcuno che svita le viti del coperchio. Gni, gni, gni, gni. E a un certo punto si apre e vedete il volto di Cristo che vi prende, vi afferra la mano e vi tira fuori dalla bara. Quello è il battesimo. È l'inizio di una vita nuova. Voi improvvisamente sentite l'ossigeno, l'aria, la vita che entra dentro di nuovo, dentro, nelle vostre narici. E improvvisamente sentite la bellezza della libertà. Questo è il Come si battesimo. muore dal caldo a proposito di ossigeno? Si può aprire No, poi. è che era l'effetto del racconto. Io l'ho detto, però non mi ha creduto. No, lo stavo dicendo, però ma qui o apro dietro, posso aprire dietro qui. No, se dove vuoi. Che arriva corrente? Però mi sono immedesimata bene. Eh sì. Solo ribalta, dici? Ma anche quella lì che viene troppo davanti forte, a tutti. scherzi. No. Quella lì. Gratta le finestre. Gratto le finestre. Non voleva essere giù. Metti la bassista in su e poi E questa non si gira. Allora giro questa. Perché veramente io mi sono più. Dice Gesù, finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Sono la luce del mondo, cioè ti restituisce la visione. sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Purificato da un'azione di Gesù che richiama una nuova creazione, quindi dal fango e dalla sua vita, dalla sua saliva, perché la sua vita unita a quel fango è lo spirito di Dio che viene inserito in quella materia, purificato da questo, improvvisamente il cieco ritorna che ci vede. Ed era cieco dalla nascita, era nato cieco, no? Il Vangelo sta dicendo: ragazzi miei, noi siamo tutti ciechi, stiamo, con il battesimo stiamo recuperando la vista. Quindi c'è una lettura battesimale del testo, che già Giovanni aveva interpretato e capito. La parola di Dio è viva, efficace, più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Quando non ci capite niente della vostra vita tra sentimenti e pensieri, leggetevi la parola di Dio. Quando non... perché è la parola che crea luce dentro. Lettera agli Ebrei, capitolo 4. La parola di Dio è viva, efficace, più tagliente di ogni spada da doppio taglio. Cioè quando entra taglia di qua e taglia di qua. Penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito. Cioè laddove c'è confusione tra una cosa che è un benessere psicologico e invece un qualcosa che arriva da Dio, la parola ti mette in luce la differenza. Scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. La parola è in grado di... quando ci sono degli stati confusionali, dove la parola di Dio piano piano ti restituisce la luce. Luce dei tuoi sentimenti, quindi ciò che provi, di ciò che senti per gli altri, eccetera. Ma anche dei tuoi pensieri, di come scoprire la verità nelle cose. Non v'è creatura che possa nascondersi davanti a Lui. No, prima parla della parola di Dio, poi dice davanti a Lui, che la parola di Dio è Gesù Cristo. Ma tutto è nudo e scoperto agli occhi Suoi, e a Lui noi dobbiamo rendere conto. Allora, lo stesso atto di consacrazione, quindi le promesse, perché noi diciamo ai giovani di Betania: fate le promesse, perché le promesse vi danno la luce, vi permette, è Spirito Santo che entra, vi permette di vedere. Certo, bisogna poi educarli a riconoscere attraverso la luce le cose che stanno capitando, riconoscere i due mondi, il mondo divino e il mondo umano. Che cosa allora ci si aspetta dagli oblati? Senza dubbio l'oblato della Fraternità Francescana di Betania è chiamato a vivere il proprio carisma laddove sul territorio è stato seminato, senza ipocrisie. Anche qui, stato seminato non significa, ho parlato con alcuni di voi, non significa stato seminato, dice io sono capitato lì e adesso per tutta la vita sarò lì. No, è un discernimento che si fa. Anche San Giuseppe, quando torna dall'Egitto, decide di portare la sua famiglia a Betlemme. Ma dal momento che c'era Archelao, mi pare il testo cita Archelao, comunque Erode Antipa, decide di tornarsene a Nazareth. E quindi va a vivere a Nazareth. C'è stato un discernimento. Non è che lì dove sei seminato, è andato giù in Egitto, allora doveva stare in Egitto. No, è un discernimento che si fa per vedere dove ti chiama il Signore. Ok? E Gesù a un certo punto è stato seminato a Nazareth, ha preso e è andato a vivere a... dov'è che è andato a vivere Gesù? Io vi... Aspetta, è nato, ha vissuto praticamente 30 anni a Nazareth, poi a un certo punto dove è andato a vivere? A casa di chi? a casa di Pietro, perché era comodo, c'era la suocera che preparava da mangiare. Oh ragazzi, cioè, mica scemo Gesù, quindi è andato a vivere a Cafarno. Allora era stato seminato a Nazareth e doveva stare a Nazareth, ma no, è il discernimento che uno fa, anche aiutato da chi è preposto ad aiutare nel discernimento. A un certo punto si sposta a Cafarno e lì diventa la sua diciamo il suo centro direzionale, no? Come si dice, la sua base operativa, diventa Cafarno. È un buon padre spirituale. Ah sì. Sì, esatto. Che cosa allora ci si aspetta? L'oblato sta dentro nella Chiesa, l'oblato non può parlare male del Papa, ma è proprio una contraddizione interna, vuol dire che non ha capito niente. Scusate, io quando sento gli oblati che parlano male del Papa dico, ma sono i nostri oblati o sono oblati di altri? Cioè, certo, ci sono alcuni che parlano male del Papa, ma io dico, ma porca miseria, ma se il Signore ha promesso a Pietro di dargli le chiavi, se il Signore ha cambiato, l'unico nome che ha cambiato è stato quello di Simone, e l'ha chiamato Pietro, l'unico. Ma quando il Signore ti cambia il nome, ti sta dando una missione. Quando a un certo punto dice a Pietro, pasci i miei agnelli, ma che sta dicendo? Cioè, mi ami tu? Noi ci soffermiamo sempre sulla prima parte, anche Nicola si è soffermato sulla prima parte. Poi c'è una seconda parte che è importante. Mi ami tu e sai che ti voglio bene. Pasci i miei agnelli. Cioè, tu sei stato chiamato a pascere. Dopo Pietro, tutti i papi successivi sono i pastori e tengono uniti la Chiesa. Ma se tutti quanti stanno criticando in giro per il mondo i protestanti perché non hanno un punto di riferimento, sono chiese che uno si alza al mattino, studia la Bibbia, diventa pastore e fonda la sua comunità. Ma non c'è un interlocutore, non si riesce a capire quello pensa quello, quello pensa quello, quello pensa quello. Noi abbiamo un pensiero. Perché abbiamo un pensiero? Perché abbiamo un Papa che fa la funzione proprio di coordinatore, non di proprietario. Nessuno è proprietario del deposito della fede, del messaggio evangelico. Ma la Chiesa è stata incaricata di interpretarlo. Le prime comunità cristiane nascono dall'interpretazione di Paolo, di Timoteo, abbiamo letto, no, stamattina. Tutti i vescovi, questi sono tutti i vescovi delle varie comunità. Giovanni, Policarpo, dopo Policarpo c'è Ignazio di Giovanni, Ignazio di Antiochia, Policarpo c'è Ireneo. Lì tutti i santi sono venuti fuori. Scusa. Si interrompo. Il problema è che oggi ci sono anche dei vescovi o comunque persone, cioè anche una parte di gerarchia che si schiera contro, quindi questo crea confusione. Cioè, vi dico questo, chiaramente il Papa, io il Papa lo seguo non per le cose che dice sull'aereo, riporti a no perché ha detto quella frase lì, ma sull'aereo sta parlando perché è Francesco, sta parlando, scusate, Bergoglio, come si chiama di nome? Jorge Bergoglio sull'aereo sta parlando come Jorge Bergoglio, ma lasciamoglielo dire, poverino, anche lui avrà modo di esprimersi. Ma quando parla ufficialmente, ed è il magistero pontificio, magistero ordinario pontificio, così come parla insieme ai vescovi, insieme dentro nei sinodi, lì c'è lo Spirito Santo che assiste, e le porte degli inferi non prevarranno contro di esso. Quella è la Chiesa. In quel momento lì, questo è un dogma del Concilio Vaticano primi del Novecento, il Papa ha il dono dell'infallibilità quando parla secondo certi criteri, non sull'aereo. È un uomo, potrà esprimere, a me mi piace mangiare l'anguria piuttosto che la mela. Adesso tutti mangiamo l'anguria. No, cioè, sta esprimendo un suo gusto personale, poverino. L'anguria è rossa, il Papa quindi... La vuol mangiare. Capite? Quindi, ecco, ma noi che ci alziamo alla notte, lo sapete che è la veglia notturna, tra le intenzioni ha proprio quella di pregare per il ministero petrino. Papa Pancrazio, questo era dritto, eh? Quindi se vi alzate di notte non potete criticare il Papa. Cioè, seminare il sospetto, io posso dire che quella, su quell'opinione è detta così, non sono d'accordo. Ma quando a un certo punto leggete i documenti, se voi andate a leggere i documenti, io ho fatto una tesi sulla vita consacrata e l'ho fatta quando c'era ancora Benedetto XVI. Io sono andato a vedere 2200 documenti, mi pare. Quindi tutto ciò che dall'inizio ad oggi si parlava, si diceva della vita consacrata. 2200 documenti, una roba, 2500 documenti, una roba spropositata. E c'è un filo rosso che è una cosa incredibile. Cioè io mi stupivo perché testi del 500, del 600, non del 1600, del 500, del 600, cose minime, cose piccole frasi, riportate in piccoli documenti, eccetera, eccetera, tutto quello che stava scritto sulla vita consacrata, sugli eremiti di allora, e quello che è stato scritto era tutto in estrema conseguenzialità, non c'era niente di contraddittorio. Lì vedi lo Spirito Santo. Allora io dico, prendetevi tutto il magistero di Papa Francesco, lo confrontate con il magistero del Concilio Vaticano II e vedrete che lui, che è Paolo VI, che parla ai giorni attuali. È Paolo VI che parla ai giorni attuali. E quello che lui ha detto nel primo documento, Evangelii Gaudium, lo sta applicando. Quindi se voi andate a prendere la Fratelli Tutti, è già dentro nelle sue intenzioni dell'Evangelii Gaudium, quando è stato eletto nel 2013, mi pare. No, non c'è niente di... Non c'è... Allora, dobbiamo stare attenti anche a chi interpreta a modo proprio. Perché? Perché sono lupi vestiti da agnelli e vanno a minare il gregge, cioè cercano in tutti i modi di dissacrarlo. E noi invece abbiamo il Papa, abbiamo la Chiesa che tiene duro. Perché? Perché è assistita dallo Spirito. Non perché siamo forti noi, ma perché è assistita dallo Spirito. Allora, dagli oblati io mi aspetto questo, una grande fedeltà al magistero, quindi la lettura dei documenti della Chiesa. Esiste il sito Vatican Va, con tutti i documenti, lì è tutto pubblico, tutto trasparente, non c'è niente di segreto, anche sulla questione degli apocrifi, Gesù Maria, ogni volta che vado in Terra Santa lo affronto perché non se ne può più di ascoltare le stupidaggini, tutte le cose segrete ecco che emergono negli apocrifi. Ma se gli scritti sono stati dopo la vita, perché è funzionato così, non è che prima è stato scritto il Vangelo e poi è nata la liturgia della Chiesa, eh? Esattamente il contrario. Quindi nella prassi del giorno del Signore, no? Il Dies Dominici, quindi la domenica, nel giorno del Signore si celebrava messa. E quando si celebrava messa si ascoltavano delle letture, si ripetevano delle formule, ecco l'agnello di Dio, ecco, sono tutte formule della liturgia. Dopo sono state scritte, non è il contrario. Quindi se gli apocrifi non sono stati presi in considerazione è perché le prime comunità cristiane hanno visto degli apocrifi, dei documenti che non servivano a niente, e le favolette. Non si possono raccontare favolette quando si parla del mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo, ascensione al cielo e invio della Pentecoste, nella Pentecoste dello Spirito Santo. Non si possono dire stupidaggini. Che Gesù prendeva il fango, soffiava sopra e poi lanciava e venivano fuori gli uccellini. Ma che ce frega! E infatti i primi cristiani eliminano tutti questi testi. Il protovangelo di Giacomo, che narra che Giuseppe ha scelto Maria perché insieme a tutti gli altri è andato col bastone, il suo bastone è fiorito, è diventato un giglio, adesso divento dissacratorio, ma sono quelle cose che io non sopporto, che diventa un giglio. Ma quel testo lì, ma si può leggere dentro nella messa? Ma non è possibile, ma lo capite anche voi? Che... E perché l'hanno scartato? Perché non c'è niente. ne fregava niente ai primi e non ne frega, non ce ne frega niente neanche a noi. A chi interessa adesso? E questo è un altro discorso. A chi interessa? Agli archeologi. Perché gli archeologi, grazie a questi testi, invece, vanno a vedere, ci sono delle descrizioni di luoghi, descrizioni di posti, vanno a scavare e trovano. Quindi gli apocrifi non sono un'invenzione così, sono descrivono i luoghi di quel tempo, no? Ma ai fini della salvezza non interessano a nessuno, non interessano proprio a nessuno. Infatti quando tu leggi l'apocrifo dopo un po' dici, caspita, la favola di Cappuccetto Rosso è più interessante, no? Ok, allora, per dire che il magistero si appoggia sulla scrittura e non c'è nulla di segreto, tutto trasparente. Dopo ci sono, dopo vogliamo parlare di tutti gli abusi, le cose, sì, perché l'uomo è l'uomo e lo trovi dovunque. Lo sapete che la percentuale maggiore di abusi sui minori viene fatto dagli scout e dagli insegnanti delle scuole, non dai preti. Andate a vedere i dati. Centri sportivi. Centri sportivi. Però, allora io non sono qui a difendere assolutamente, sono a dire certe cose sono brutte proprio. Ma il Papa Francesco ha messo in atto, ci sono dei processi durissimi nei confronti di chi ha tirato, ha scoperchiato tutto. Ma perché non è stato scoperchiato negli scout piuttosto che in America, in tutte quelle centri sportivi e cose varie e scuole? Perché non è stato scoperchiato? Capite che sotto sotto c'è una come lo chiama Paolo? Un mistero di iniquità. Mysterium iniquitatis, dice Paolo, San Paolo. Cioè c'è una volontà di silurare la Chiesa, perché la Chiesa è scomoda, perché la Chiesa ti dice che la guerra non è giusta, perché la Chiesa ti dice che tu non puoi continuare a guadagnare alle spalle dei poveri, perché la Chiesa ti dice dividi il tuo guadagno, sii solidale, perché la Chiesa mette in luce le ingiustizie perpetrate a danno di gruppi etnici, no? Che in India, di qua, di là, insomma ci sono gruppi etnici che vengono emarginati, perché la Chiesa ti dice che l'aborto non lo devi fare, perché stai ammazzando una persona, perché la Chiesa ti dice che i tuoi anziani te li devi tenere fino in fondo, non li puoi ammazzare perché ti è venuto il gusto di farli fuori, perché vuoi andare alle Bahamas a fare la tua vaccanzina. Allora la Chiesa diventa la Chiesa è insopportabile, ma è naturale che si pensi questo. Ma noi no, noi oblati no. Ecco, l'oblato si fa esperto dello spirito, servo dello spirito. Perché? Per istruire l'umanità, consolarla, educarla, parola più importante di tutti, liberarla. Io mi sento liberato quando sento questi discorsi sulla preghiera, per esempio, che capisco che la preghiera è proprio questo ascolto della voce di Dio. Io mi sento liberato, non devo, non è dovere. Mi devo mettere in ascolto. E dentro quell'ascolto, penso a... Concludo come ha fatto... Mi è piaciuto come ha concluso Nicola, no? Concludo con Leopardi, io. Sempre caro mi fu quest'ermocolle e questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi, e di là da quelle sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura, e come il vento do stormire, eccetera, eccetera. Cioè, sprofondare dentro quel silenzio che è il silenzio di Dio che ti avvolge e ti parla. E tu capisci le cose. Quanto desidereremmo sempre più che gli oblati diventino progressivamente animatori di altri oblati. Vi ho portato Nicola, sono stato contento che ci fosse Nicola. Siamo sulla buona strada. Ognuno di voi è chiamato a questo, no, questo, a respirare in maniera nuova, a respirare secondo lo Spirito, per poter essere a vostra volta, a sua volta, ognuno di voi, a sua volta, promotore di una liberazione. Sapete come è chiamato Gesù? Gesù nel mondo ebraico, cioè il Messia, non Gesù, il Messia nel mondo ebraico era chiamato il Goel, e cioè colui che riscatta. Geulah è il riscatto. E come si riscattava una persona? Si riscattava andando a sciogliere i sandali del proprietario. Allora Giovanni Battista dice quella bellissima frase: non sono degno neanche di... non sono io il riscattatore, è un altro che verrà a sciogliere i sandali per rendervi tutti persone libere. Sia lodato Gesù Cristo.